Yeah. Se chiudo gli occhi solo per vederti, in questo film ci sei tu. Ehi, i titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiamo giù. Ehi, ho il sole in faccia se ridi, wow. Sei bella pure se credi, wow. Giuro posso darti molto più di ciò che sottolini nei libri, wow. Guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico. Non sono il tipo, lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte, dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte, cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste. A volte sono un mostro, il cuore sciale, freddo come il posto che piace a te. Lacrime d'inchiostro con il tuo nome, chiedono del nostro amore De Andre. E ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu. Ho perso la ragione sei tu. Che mi fa andare fuori, se tu mi fa andare fuori. You like the beat in my heart, we can't fall. Baby, please forgive me, I love hard. Share with me space, turn around and get close up. And back together, back together, hey, again, hey. Potrei guardarti per ore, ma oggi non posso, domani lo giuro. Mani ghiacciate sul cuore, mani sul collo, mani sul culo. Scusa il mio tocco di classe, ehi, ma credo la terra sia piatta, ehi. Quando sei qui il mondo inverte su asse. E scivoli tra le mie braccia, il cuore si ferma, cambiamo le pile. Queste parole fan come fucili, passa un secondo tra il dire e il morire. Non basta una vita per farle capire, ehi. L'amore fa perdere il lume, come l'inferno ma piovono piume. Io sono il tipo che sta sulle sue, questa coperta non basta per due. Può fare freddo anche il 15 agosto, e tu sei dall'altra parte del mondo. So che è scontato guardare le stelle, vivo un secondo che dura per sempre. Ho chiuso il cielo nella stanza, le pareti blu. Ho perso la ragione sei tu. Che mi fa andare fuori, se tu mi fa andare fuori. You like the beat in my heart, we can't fall. Baby, please forgive me, I love hard. Share with me space, turn around and get close up. And we're back together. Aspettavi invece quella qua, non te l'aspettavi da un come.